Letture di Radio 24. Ogni anno 60.000 nuovi titoli arrivano nelle nostre librerie, ma la loro vita è sempre più breve. Alcuni scompaiono in breve tempo dagli scaffali per non tornare più, altri, dopo pochi mesi, ritornano già sotto forma di tascabili. In America le lancette hanno cominciato a girare così velocemente da consegnare al mercato la versione economica di un romanzo 5 mesi dopo la prima edizione. E in Italia, come spesso accade, in molti si sono già adeguati. Quando negli States sugli scaffali è comparso il tascabile di Swamplandia, fortunato esordio letterario di Karen Russell, si è capito che il ciclo di vita dei libri era stato alterato per sempre. Fino a poco tempo fa nessuna opera diventava tascabile prima di un anno e se il romanzo era di successo, i lettori non avevano scelta, o lo compravano a caro prezzo in hardcover, rilegato con copertina rigida, o si rassegnavano a una lunga attesa. Gli esperti non hanno tardato a rintracciare il colpevole, l'ebook, che dopo anni di lenta crescita ai margini del mercato è esploso fino a rappresentare il 25% delle vendite. A quel punto, gli editori hanno compreso che il prezzo della carta non era più competitivo e che per dare nuova vita al libro era necessario puntare sul low cost. In Italia gli ebook non raggiungono neanche l'1% dei lettori, eppure il ciclo di vita del libro sembra ugualmente alterato. A gennaio è uscito Tua, intenso romanzo sulla società americana della scrittrice argentina Claudia Piñeiro. 8 mesi dopo, Feltrinelli pensa già a una pubblicazione nella collana economica. I due principali gruppi editoriali italiani, Mondadori ed RCS, a distanza di pochi mesi l'uno dall'altro, hanno lanciato 2 marchi simili, Numeri Primi e Vintage, che pubblicano tascabili di qualità ma più costosi dell'edizione economica, tra i 12 e i 15 euro. In catalogo non solo classici, ma romanzi con robustissime vendite come Acciaio della Vallone o Il cimitero di Praga di Umberto Eco, uscito appena 10 mesi fa. Cosa sta accadendo? Siamo in una situazione molto diversa da quella americana, dove la casa editrice che pubblica il libro rilegato non è la stessa del tascabile, spiega Stefano Mauri, presidente del gruppo GEMS. In Italia un tascabile esce quando si ritiene che l'hardcover abbia esaurito le sue potenzialità. E questo accade sempre più velocemente. Capita che libri di successo vengano proposti in tascabile dopo 7-8 mesi, precisa Raffaello Avanzini della Newton Compton. Fino a qualche anno fa Feltrinelli passava dalla prima edizione all'economica dopo 2 anni. Ora i tempi si sono dimezzati, spiega il direttore editoriale Gianluca Foglia, che individua 3 cause. La vita ridotta di un libro sugli scaffali, la memoria corta del mercato e la crisi economica che rende il lettore più sensibile ai prezzi. Ogni anno 60.000 titoli, più di 160 al giorno, invadono le librerie con il risultato che alcune novità spariscono dagli scaffali dopo 1 mese. O magari cadono nell'oblio. Pubblicare in edizione economica significa quindi allungare la vita di un libro, ma anche assecondare la tendenza del low cost, oggi più florida che mai. Nel 2010 il 18,1% delle vendite è stata rappresentata dai tascabili, con un aumento rispetto all'anno precedente del 10,8%. Le edizioni rilegate, invece, sono cresciute appena dell'1%. Abbiamo pensato a una fase intermedia tra quella in hardcover e il paperback per rispondere alle esigenze dei lettori forti, spiega Antonio Riccardi, direttore di catalogo delle case editrici del gruppo Mondadori. Mediamente si passa dalla prima edizione al tascabile in un arco che va dai 12 ai 24 mesi, precisa Massimo Turchetta, direttore generale RCS Libri. Vintage si inserisce in una fase intermedia, interessante anche per il futuro, cioè quando gli ebook avranno un peso. Tra 2 o 3 anni, conclude Foglia, anche noi aggiungeremo una nuova variabile al ciclo di vita dei libri di carta, l'influenza sul mercato dei libri elettronici. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Stefania Parmeggiani, Libro, la vita breve delle novità. Ora in 5 mesi arriva il tascabile, dalla Repubblica del 9 agosto. Letture di Radio 24. In Cina le bacchette hanno una tradizione millenaria, ma ora rischiano di sparire. I figli dei nuovi ricchi, infatti, preferiscono le posate all'occidentale. Le bacchette cinesi sono in declino? I figli del boom economico le snobbano, mentre nei ristoranti alla moda sono d'ordinanza forchetta e coltello. E i sociologi più conservatori si preoccupano di questo nuovo fenomeno della Cina moderna che strappa valore a un altro pezzo di tradizione. «Non provare a tornare senza aver imparato a usare le posate», dice la mamma a Shi Weidong, 12 anni, che sta prendendo il suo primo volo internazionale. Destinazione Bonn, Germania. Insieme a 250 coetanei, frequenterà un campo estivo dove le bacchette saranno bandite. Nel programma di studi finalizzato a spiegare alle nuove generazioni il pensiero europeo con annessi e connessi, Galateo a tavola compreso, sta certamente la politica lungimirante di un paese che comprende la necessità di conoscere a fondo il nostro primo partner commerciale, non nasconde l'agenzia di stampa governativa Xinhua. Ma dietro al rifiuto dei Kuaizi, le bacchette, c'è molto di più. Le bacchette, di decine di materiali dal legno all'osso, servono per mangiare, ma anche nelle varianti più preziose, come oggetto regalo. Chiunque andando in Cina sarà tentato di acquistarne un paio se non l'avrà già ricevuto in dono da un amico locale. Poi, saper tenere in mano correttamente i Kuaizi non è scontato. Nei pranzi ufficiali è una delle prime cose che i cinesi notano e apprezzano. Ma i salotti bene, sempre più spesso, si associano ai ristoranti in stile occidentale di cui le metropoli cinesi oggi pullulano. Così, maneggiare con maestria, coltello e forchetta sta diventando uno status symbol da esibire non solo in compagnia di stranieri, ma anche dei propri connazionali. Ed è il motivo per cui sempre più genitori pensano che valga la pena spendere l'equivalente di 4.000 euro per 3 settimane di lezioni di bon ton a Parigi o a Londra, da dove, dice Wu Ying, un papà di Pechino che fa il bancario, mio figlio tornerà con quel tocco di classe che lo avvantaggerà nella carriera. Una volta grande andrà nei ristoranti di lusso e viaggerà all'estero finché mangiare all'occidentale diventerà un'abitudine irrinunciabile. Spiega Xiao Long, un'educatrice di Shanghai abituata a portare a spasso frotte di piccoli imperatori, i bambini frutto della politica del figlio unico, straviziati e mandati in scuole esclusive dove le bacchette non sono più di moda. I tradizionali Kuaizi di legno, incartati ad uno e destinati alla spazzatura dopo l'uso, così poco ecologici e poco galateo corretti, sono spariti anche da molti voli della compagnia di bandiera Air China. Al loro posto le posate che i viaggiatori cinesi, volenti o nolenti, si trovano a tenere in mano e molto spesso a mai più lasciare. Un trend ancora poco diffuso se si considera che centinaia di milioni di cinesi hanno visto forchetta e coltello solo in televisione, ma significativo, perché l'immagine della Cina nel mondo è rappresentata dai pochi sempre più abili ad arrotolare gli spaghetti. Così, come per ogni tema familiare che si rispetti, sul web il dibattito è acceso. Come e a che età insegnare a usare i Kuaizi? È giusto che una ragazza alla moda esibisca le posate se invita gli amici a cena? Per arrivare a discussioni impegnate che interessano i sociologi. Sembra infatti, in base a studi con tanto di prove degli effetti salutari e professionali, che l'uso delle bacchette contribuisca allo sviluppo dell'intelligenza di cui molti bimbi cinesi brillano. Ne è convinto il professor Li Zeng-tong, che sulla rivista Medico di Famiglia fa l'elogio della bacchetta. L'ingegno degli infanti sta nelle mani, di cui le bacchette sono il prolungamento, altro che le posate. Qualcuno in un forum nota che l'azienda degli Stati Uniti, Georgia Chopsticks, fa concorrenza alla Cina. Nella giornata dell'albero ho deciso che non userò più i Kuaizi, dice un ecologista. Gli attacchi piovono da tutte le parti, le bacchette certo non spariranno, a difenderle saranno la tradizione e la consuetudine che ne hanno fatto la storia. Ma forse, ai turisti dell'esotico, non basterà più acquistare un pacchetto vacanza in Cina per vedere quello che dai cinesi si aspettano. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Marzia De Giuli, Cina, le bacchette non sono più chic, dalla stampa del 10 agosto. Se le bambine sono scarse in matematica, la colpa è delle madri. Lo dimostrerebbe una recente ricerca. Le madri che si lamentano dello scarso rendimento delle figlie in matematica dovrebbero mettersi una mano sulla coscienza. Secondo una ricerca dell'Università di Bologna, qualche responsabilità ce l'hanno. Lo studio, condotto su 124 bambine tra i 5 e i 7 anni e pubblicato su Developmental Psychology, mostra che se la madre crede che la figlia non sia portata per i numeri, questa otterrà in matematica punteggi fino al 15% inferiori rispetto alle coetanee con madri che invece le incoraggiano nella materia. Le opinioni dei padri, al contrario, non pare abbiano alcuna influenza sul rendimento. Nello studio è stato anche chiesto alle bambine di rappresentare con un disegno l'immagine femminile, mettendo poi i risultati a confronto con l'opinione delle loro madri sulla predisposizione delle femmine alla matematica. Dai risultati è emerso che le bambine con la tendenza a rappresentare la donna in modo stereotipato hanno spesso una madre che nutre poca fiducia nella capacità del genere femminile di cavarsela con le materie scientifiche. Già a 5 anni le bambine sono inconsapevolmente condizionate dagli stereotipi di genere, spiega Carlo Tomasetto, ricercatore dell'Ateneo Bolognese e coautore della ricerca. Le richieste sociali e familiari giocano un ruolo importante nei rendimenti scolastici, aggiunge Daniele Novara, pedagogista e direttore del Centro Psicopedagogico per la Pace e la Gestione dei Conflitti di Piacenza. E si osserva che dal punto di vista scolastico, l'aspettativa della madre agisce sull'immaginario psichico infantile in maniera profonda, determinando spesso le carriere scolastiche dei figli. Esistono famiglie orientate in senso tecnico che producono un certo numero di ingegneri e altre orientate in senso umanistico che producono avvocati e insegnanti. È una specie di imprinting che talvolta si protrae per 3-4 generazioni. Vilma Di Palma, responsabile del Museo della Matematica di Roma e autrice di Chi ha paura della matematica cattiva, conclude: nessuno studio serio di neurofisiologia ha mai detto che testosterone e matematica hanno un qualche nesso tra loro. E infatti, non in tutte le nazioni la matematica è appannaggio degli uomini. Secondo le ultime statistiche, il gap tra maschi e femmine che si iscrivono a facoltà scientifiche per poi fare ricerca pone l'Italia al penultimo posto, tra la Corea del Sud e la Turchia. In cima ci sono i paesi scandinavi, dove alle femmine si dà più fiducia. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Sara Ficocelli, Matematica dalla parte delle bambine, dal venerdì di Repubblica del 12 agosto. Chissà cosa si prova a ballare. È il titolo del libro autobiografico scritto dalla deputata Ileana Argentin, responsabile del PD per i diritti dei disabili. Affetta da amiotrofia spinale, Ileana racconta in forma di diario la sua battaglia quotidiana per l'abbattimento delle barriere culturali, che a volte significa anche far capire che concedere dei privilegi ai portatori di handicap è solo un altro modo per discriminarli. Lunedì 28 marzo 2011. La giornata di oggi è stata difficile, per non dire schifosa, e sto scrivendo allo scopo di esorcizzare tutte le negatività che mi porto dentro. Come si può strumentalizzare o fare demagogia spicciola sull'handicap da parte degli stessi disabili? Sono senza parole. Questa mattina sono stata costretta a negare il principio di uguaglianza per liberare i disabili dall'uso improprio che viene fatto del concetto di pari opportunità. Infatti alle 10 si è tenuto un convegno organizzato dalle associazioni di categoria dell'handicap dove ero stata invitata come relatrice. Qui il presidente di un'associazione di disabili con handicap a sua volta ha manifestato con grande cinismo e intolleranza il diritto all'autonomia dei diversi per ottenere la gratuità di molti servizi pubblici. Che vergogna! Ancora una volta viene confuso il diritto con il privilegio. È inaccettabile che sia proprio un disabile a chiedere il cinema gratis o il teatro solo perché è in carrozzina. Capisco e comprendo la rabbia di molti sfigati, ma non riesco a giustificare in nessun modo l'uso del disagio per il raggiungimento del proprio tornaconto. Noi diversi abbiamo lottato e battagliato quotidianamente per ottenere dignità e cultura, per il rispetto dei nostri status, ed ecco qua che uno qualunque, solo perché su quattro ruote, brucia tutto. I disabili non sono migliori degli altri, sono uomini e donne, e come tutti si compongono di persone oneste e disoneste. Proprio per questo il tipo di stamattina l'avrei picchiato, soprattutto perché aveva la piena consapevolezza di usare davanti ai media la forza contrattuale della sua immobilità. Pagati il cinema e basta. Se sei povero, chiedi i giusti incentivi economici, ma non parlare di assistenza. Ricordati che c'è chi non si può alzare dal letto da solo la mattina e tu fai i tuoi show politici per loro, per difendere i diritti, non per i cavoli tuoi. Questo è il tuo dovere se rappresenti un'associazione. Non voglio essere maestra di vita per nessuno, ma la povertà è altra cosa dall'handicap. Questa è una verità che non va messa in discussione. La classe politica, nel legiferare, deve tener presente, a mio modesto avviso, che una condizione di disagio non deve essere confusa con uno stato di indigenza. Chi è ricco paga, e chi è povero, se non ce la fa da solo, deve essere sostenuto. Lo dico sempre e lo ribadisco ora. L'handicap non ci rende tutti uguali. Avete ascoltato la lettura di alcuni passaggi dal libro di Ileana Argentin, Chissà cosa si prova a ballare, gioie, passioni e battaglie di una vita con l'handicap. Donzelli Editore, 136 pagine, 13 euro.